L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti nella politica dei corrotti, c'è posto per tutti e non c'è neanche bisogno di mettersi in fila, tanto nessuno la rispetta. Queste sono le parole che ha utilizzato Michele Ainis mercoledì sulla Stampa, cioè il giorno dopo, quindi a caldo, il giorno dopo l'esplosione del caso politico, giudiziario ma anche economico della settimana, quello che tra filoni che sono diversi tra di loro ma che poi si trovano anche in modo paradossale intrecciati tra loro, coinvolge nomi illustri della nostra impresa, da Fausto e da Telecom, arriva fino all'Andrangheta e passa anche per il Parlamento, nella fattispecie con il nome del senatore del PDL Nicola Di Girolamo. E allora buongiorno dall'ottavo giorno e da qui, da questa torbida vicenda, partiamo oggi nel nostro riepilogo dei fatti dell'ultima settimana, che vanno, come lo sapete, da sabato scorso 20 febbraio fino a ieri. E allora appunto apriamo le danze con il riascoltare un paio di servizi che sono andati in onda nei GR di Radio 24 in questi giorni. Per ora ci concentriamo sul versante prettamente economico e affaristico della vicenda, poi parleremo a parte di Girolamo e dei risvolti politici. Torniamo a mercoledì mattina, riascoltiamo nell'ordine prima Andrea Viali e poi Moria Longo. Quella scoperta è una frode fra le più colossali mai avvenute in Italia, scrive così il GIP di Roma nell'ordinanza con la quale ha autorizzato i 56 arresti chiesti dalla procura distrettuale antimafia. Fra i destinatari c'è Silvio Scaglia, il fondatore ed ex amministratore delegato di Fastweb, che è ancora ricercato, e il senatore del PDL Nicola Di Girolamo, eletto all'estero grazie ai voti dell''Ndrangheta, sostengono gli inquirenti. In manette è finito anche un ufficiale della Guardia di Finanza. Fra le società che sarebbero coinvolte nel giro di riciclaggio di denaro sporco, alcune delle quali attive all'estero, c'è anche la Telecom Italia Sparkle, interamente controllata da Telecom Italia S.P.A., i cui vertici, secondo il GIP, avrebbero responsabilità in quanto accaduto perché non potevano non accorgersi della colossale truffa. La procura ha anche chiesto il commissariamento sia per Telecom Italia Sparkle sia per Fastweb. Il procuratore nazionale antimafia Grasso sintetizza così il quadro emerso dall'inchiesta. È uno spaccato di illegalità e di commissione di tanti campi. La criminalità organizzata, la politica, gli affari, l'economia, tutto quanto in questa, possiamo definire, strage della legalità. Un giro di fatturazioni false, debiti IVA non versati allo Stato, soldi che viaggiavano per il mondo. Ecco il vortice della cosiddetta frode carosello. Il meccanismo della frode era complesso, ma un esempio può aiutarci a capirlo. La prima tappa della frode è a Londra, dove c'è una società che si chiama Acumen. Questa, a fronte di servizi inesistenti e di fatture fittizie, paga alle italiane Fastweb e Telecom Italia Sparkle 100 euro. Si tratta di soldi veri che già appartenevano al gruppo di persone che organizza la frode. I 100 euro arrivano quindi in Italia. Fastweb e Telecom ne tengono il 5 e il resto, cioè 95, lo passano ad un'altra società di comodo, iGlobe. Con l'aggiunta dell'IVA, i 95 euro sono però diventati 114. Questi passano poi ad un'altra società di comodo, che invece di pagare l'IVA allo Stato italiano, li gira ad una quinta società panamense, la quale versa nuovamente i 114 euro alla società inglese da cui è partito il circuito. Questa, in parole povere, ha aumentato i suoi soldi da 100 a 114 euro. Così il giro può ricominciare, i soldi tornano a Fastweb e Telecom Italia Sparkle, sopra viene messa l'IVA e il bottino, che ripassa da Panama, diventa 130 euro. Moltiplicate i circoli di questo tipo per fatturazioni fittizie pari a circa 2 miliardi di euro e il gioco è fatto. La truffa ai danni dello Stato è di 365 milioni di euro. L'ottavo giorno. Restiamo con i piedi ben piantati nella vicenda Fastweb Telecom Di Girolamo, un'inchiesta che è sempre più vorticosa, ormai ho perso il conto degli indagati, ma tra poco sforeremo il muro dei 100 indagati. D'altra parte la truffa è, come è stato ricordato anche nei servizi della prima parte, davvero colossale. E allora, per mettere un po' d'ordine e, se serve, anche affondare la lama in questa questione delicatissima, ho voluto in trasmissione Oscar Giannino. Buongiorno Oscar. Buongiorno. Naturalmente per il pubblico di Radio 24 non c'è bisogno di presentazioni, insomma Oscar conduce ogni mattina 9 in punto la versione di Oscar e proprio giovedì, tra l'altro, per un'ora ha avuto in trasmissione, in un dialogo direi serrato e non facile, credo, per soprattutto l'interessato, Stefano Parisi, amministratore delegato di Fastweb. Ecco, che impressioni hai avuto dopo quella trasmissione? Entriamo subito nel vivo, quelle che sono state le tue percezioni di questo contatto ravvicinato con Parisi proprio nel momento peggiore forse anche della sua attività di manager. Sì, direi che sicuramente il momento peggiore e secondo me anche largamente inaspettato. Beh, l'impressione più forte che ho avuto è stata la risposta all'ultima domanda, in cui, dopo aver spiegato dal punto di vista dell'amministratore delegato di Fastweb che cosa era avvenuto e su che cosa verte l'indagine, dopo aver ascoltato la sua versione su le reciproche, ma molto distinte nella sua ricostruzione, responsabilità tra ciò che spetta a Fastweb come impresa telefonica e come eventuale responsabilità di illeciti rispetto a tutti gli altri illeciti posti in essere da coloro che stavano nelle società che non hanno pagato loro l'IVA allo Stato e hanno poi fatto anche riciclaggio di fondi neri, di denaro sporco, voglio dire, e costituito anche poi fondi neri. Dopo tutto questo io gli ho fatto un'ultima domanda che con grande sincerità gli chiedeva comunque quale fosse la sua valutazione di fronte all'impatto che questo vortice di schifezze ha sull'opinione pubblica, che naturalmente non ha tutti gli strumenti per valutare tecnicamente i passaggi particolari e le distinte responsabilità in ordine ai reati, quelli tributari e poi agli altri che sono gravissimi. E lui, devo dire con grande sincerità, mi è sembrato sincero nell'ammettere che non si può illudere, cioè che l'impatto sull'opinione pubblica è un impatto devastante. Lui ha concluso dicendo: bisogna distinguere nettamente le responsabilità, perché se facciamo di tutto erbe un fascio ovviamente commettiamo un errore, però nella prima parte della risposta mi è sembrato provato, cioè mi è sembrato un uomo che non sottovaluta affatto che questa distinzione sarà molto difficile. Nel procedimento io mi auguro che sia nettamente rispondente al dovere del magistrato, ma nell'opinione pubblica lo sappiamo qual è il meccanismo che si crea, e si crea un giudizio immediato sull'onda emotiva della riprovazione, dello sdegno per cose di questo genere. Ecco, tra l'altro Fastweb secondo me ci ha regalato anche l'immagine, se vuoi dal punto di vista drammaturgico, più forte, almeno quella che mi ha colpito di più, cioè il ritorno in Italia di Silvio Scaglia, il fondatore, che è stato accolto di fatto come un latitante dalla Guardia di Finanza all'aeroporto di Ciampino nella notte tra giovedì e venerdì, ed è stato poi subito portato, subito tradotto, come si dice in gergo, a Rebibbia. Tutto questo peraltro dopo aver venduto le sue quote a Unicredit. Anche questo insomma un colpo nell'immagine poi fortissimo per Fastweb. Secondo te alla lunga ci saranno conseguenze gravissime per l'azienda? Anche poi un altro aspetto che ci riporta indietro alle cronache di 15 anni fa, perché il pubblico ministero, credo, insomma non troppo casualmente, ha deciso poi di andare a Milano a interrogare altri, mentre Scaglia se ne sta un po' di tempo a riflettere, quindi in carcere a Roma, cose che eravamo abituati a vedere come tecnica di massaggio, per così dire, nei confronti dei ristretti in carcere ai tempi di Tangentopoli, che da allora non si vedevano praticamente più. Veniamo invece proprio al filone prettamente politico della vicenda, perché è saltato fuori un nome importante, quello del senatore Nicola Di Girolamo, eletto all'estero con il PDL, tra l'altro con un numero altissimo di preferenze, oltre 25.000, quindi veramente ha sbaragliato il campo, e forse abbiamo anche capito perché dalle intercettazioni. Allora, per inquadrare la situazione, riascoltiamo un servizio di giovedì mattina firmato da Valentina Furlanetto. Lui nega e dice di non avere mai avuto rapporti con i boss dell'Andrangheta, ma alcune foto ritraggono Nicola Di Girolamo abbracciato al capoclan franco pugliese. Con loro compare anche Gennaro Mokbel, ritenuto dagli investigatori l'uomo chiave dell'inchiesta, il vero promotore dell'associazione per delinquere coinvolta nel maxi riciclaggio, il burattinaio che muoveva Di Girolamo chiamandolo in un'intercettazione schiavo. Di Girolamo, secondo l'accusa, sarebbe stato eletto all'estero grazie all'appoggio della cosca Nicoscia e Arena di Isola Capo Rizzuto e grazie proprio a Mokbel, vicino all'estrema destra e ad ambienti della Banda della Magliana. I magistrati romani motivano con il rischio concreto che il senatore del PDL possa fuggire la richiesta di arresto inviata alla Giunta per l'immunità del Senato. Una decisione arriverà giovedì prossimo, ma già nel giugno 2008 il Senato, scoperto che Di Girolamo, eletto a Bruxelles, in realtà non vi risiedeva affatto, negò l'autorizzazione a procedere. Per questo Roma ora indaga anche sulle coperture politiche di cui il senatore godrebbe. Giannino, io non amo i moralisti e il moralismo, soprattutto quando c'è di mezzo la politica, e credo che questa sia anche la tua opinione, però insomma bisogna dire che se fosse vera anche solo in parte tutta questa storiaccia di Girolamo è davvero mostruosa, perché si va oltre la semplice mazzetta o la corruzione, c'è di mezzo l'Andrangheta, insomma un candidato scelto e manovrato dalla malavita, poi addirittura l'imbarazzo ha coinvolto persino l'ambasciatore italiano in Belgio, perché pare abbia agevolato più o meno consapevolmente la finta residenza a Bruxelles di Di Girolamo, e credo, ironia della sorte, che in Belgio stia per arrivare anche Napolitano, quindi veramente la storia diventa anche beffarda per certi versi. Sì, tu che ne pensi? Non c'era paese dove non era il caso di fare una peggior figura che quello che ospita le istituzioni della comunità, cioè direi proprio che siamo, riusciamo sempre a toccare delle vette non commendevoli. Guarda, io distingo, la mia risposta però parte da una distinzione molto netta. Io vorrei solo che fosse chiaro all'opinione pubblica, a chi ci ascolta, a noi per primi, che la vicenda dell'inquinamento che evidentemente traspare, molto pesante, perché ha delle tinte da malavita organizzata, da vero e proprio racket della criminalità, perché poi il parlamentare è parte, in quello che si legge nell'ordinanza, attivissima nell'organizzazione del castello di finte società attraverso cui avviene il riciclaggio di fondi sporchi e avviene poi la costituzione di fondi neri. Ecco, questa terribile accusa su un parlamentare eletto in collegi esteri aggiunti nelle ultime legislature ai parlamentari eletti italiani non c'entra niente, sottolineo niente, con la vicenda delle responsabilità delle società telefoniche, e questo io trovo per esempio che sia assai poco netto nell'informazione che prevale. Perché, che anche il GIP ha ammesso che non è chiaro il legame di Di Girolamo con la frode. Un fascio, nel senso che in nessun caso, ripeto, lo sottolineo, in nessun caso i funzionari, i dirigenti delle telefoniche che fanno traffico internazionale eccetera eccetera, comprano e vendono a società, perché poi funziona così per tutte le telefoniche, vanno a fare il DNA di chi c'è dietro. Ecco, naturalmente questo però, Giannino, non alleggerisce la posizione di Girolamo, in quanto anche esponente del Parlamento. Altrimenti sembra quasi, no, è giusto chiarire, è giusto chiarire. L'unico circolo dantesco, invece no, la cosa di gravità assoluta è quella che getta un'ombra. In realtà io sono stato critico da sempre su questi collegi esteri di ampiezza più che continentale, perché a me sembra inevitabile che il sospetto su come si possano davvero raccogliere voti in collegi così impercorribili che vanno da un capo all'altro di interi continenti, a me il sospetto è sempre venuto. Oltretutto il rilievo di queste figure di parlamentari, do un giudizio generalista che non c'entra con le responsabilità penali di De Girolamo, non mi è mai sembrato straordinario, non mi sono mai stupito di questo. Credo che questa volta assisteremo a un colpo molto pesante per questa innovazione istituzionale che, secondo me, con tutto il rispetto per l'anziano parlamentare che l'ha voluta, perché si è impegnato tra maglia tutta la vita per il riscatto delle comunità italiane all'estero, però è stata mal congegnata, mal pensata e peggio realizzata. E qui tra l'altro c'è anche un aspetto grottesco della storia, perché Tremaglia, che è DN, che ha voluto la votazione all'estero, e poi è DN di estrazione perlomeno di Alleanza Nazionale, questo Di Girolamo finito nel polverone. E io tra l'altro mi associo ai tuoi dubbi sulla regolarità di questo voto all'estero, perché nel 2006, quindi l'elezione precedente, che era la prima dell'Italia all'estero, andai a Castelnuovo di Porto, vicino a Roma, dove confluivano questi pacchi postali che arrivavano da tutto il mondo, e devo dire che la gestione di questi voti, di queste cartelle elettorali, era quantomeno dubbia, non per colpa di chi era lì a Castelnuovo di Porto naturalmente a gestire la cosa. Mi ha colpito molto, e qui mi aspetto una tua dura critica, anche l'atteggiamento della politica, che tendenzialmente a caldo si è subito autoassolta. Schifani, Fini hanno ripudiato Di Girolamo, però in anni precedenti, quando c'era da votare l'arresto per Di Girolamo, non hanno fatto nulla, insomma. E Sorgi ieri sulla Stampa ha parlato chiaramente di lacrime di coccodrillo. Oh, beh, credo che Marcello Sorgi abbia assolutamente ragione. Tra l'altro, mi aspetto adesso che la politica, siccome ha fatto orecchie da mercante in passato a questo tipo di rilievi, e comunque ha fatto orecchie da mercante alla richiesta esplicita che era arrivata alla Camera di appartenenza per Di Girolamo, adesso poi farà la gara a chi è più duro, ovviamente, perché nell'ipocrisia poi questo è il prezzo che si paga. Ecco, abbiamo ancora un minuto e voglio completare questo intreccio, questa triangolazione a volte curiosa, a volte perversa, tra politica, inchieste e magistratura, perché essendo ormai senza fine questo triangolo, questa triangolazione, nei giorni di Di Girolamo è anche spuntata la sentenza Mills, che naturalmente riguarda anche quello che è il convitato di pietra in tribunale, cioè Berlusconi. C'è stata una prescrizione che naturalmente, come sempre, anche questa è perfetta tradizione italica, viene letta da una parte e dall'altra in modo diametralmente opposto. Tu che idea ti sei fatto di questa vicenda e delle conseguenze che porterà poi sul discorso giustizia, campagna elettorale e quant'altro? Mi sono fatto l'idea di un, mi dispiace dirlo perché io per la mia laurea e per i miei studi io porto grande rispetto a tutte le sentenze, figuriamoci se non lo porto alla Suprema Corte. Diciamo che se fossi stato membro del Collegio della Suprema Corte avrei tentato di far riflettere i miei colleghi che o si prenda una posizione netta sui tempi del compimento di un reato e allora però non può restare in piedi la conclusione della condanna, o altrimenti dire no, va in prescrizione, non si fanno i 4 anni e 6 mesi di carcere per Miss, però contemporaneamente il procedimento e le sue conclusioni resta tutto integralmente in piedi, compresa la sanzione di dover pagare Palazzo Chigi che sarà costituito parte civile, è una cosa all'italiana, perché consentirà per l'ennesima volta, come hai giustamente detto tu, di leggere la cosa in maniera simmetrica e opposta, e dopo 15 anni io sono riuscito a far dire in trasmissione a gente che la pensa molto simmetricamente all'opposto su Berlusconi in quanto a sistematico violatore delle leggi penali, che almeno abbiamo raggiunto una convinzione, a fatica in 15 anni e dopo decine e decine di procedimenti giudiziari, che per via di giustizia di Berlusconi non se ne viene a capo. Però comunque, se l'hai strappato a Barbacetto questa missione, molto interessante. Barbacetto che è zurro del giornale, ma però in realtà come si vede continuiamo a parlare di questo tipo di pronunce qua, che sono un po' cerchiobottiste, come quella che ha riguardato Andreotti, se parliamo di un altro grande processo che ha per anni buttato un'ombra non solo su uno dei più storicamente continuativi figure di statista italiana, ma anche sull'immagine italiana all'estero. Alla fine la conclusione consente ad alcuni di dire, come sappiamo, sì, però in realtà nella sentenza c'è scritto che negli anni precedenti era connivente con la mafia, e altri dicono ma che state dicendo? Io credo che questa maniera di fare giustizia, con tutto il rispetto che ho per la Suprema Corte e per tutti i componenti dell'ordine giudiziario, presti troppo l'orecchio alle considerazioni politiche. Le decisioni della giustizia, quando riguardano responsabilità di tutti, ma anche della politica, innanzitutto della politica, devono essere nette e chiare. Poi in tutto questo il TG1 ha detto che Mills è stato assolto, insomma. Quindi vabbè, qui si entra in un'altra questione. Questo riguarda una certa disinvoltura nel fare il nostro mestiere. Oscar, ti ringrazio molto, grazie ad Oscar Giannino per il contributo puntuto che ci ha dato, molto interessante. L'ottavo giorno. Siamo arrivati a metà puntata, abbiamo ancora naturalmente molte cose da raccontarvi. Posso anticipare che nell'ultima parte apriremo una lunga parentesi sullo sport, sul calcio in particolare, quindi per forza di cose, gioco forza, parleremo di Mourinho, ma non ci dimenticheremo anche di fare il resoconto di quello che è il magro, deludente bottino italiano alle Olimpiadi di Vancouver. Ma intanto, visto che usciamo da una lunga discussione che ha toccato temi delicati come la corruzione, le commistioni tra affari, malavita e politica, che nei migliori di casi sono pericolose, nei peggiori però direi che sono davvero criminali, voglio farvi riascoltare un servizio che in apparenza non c'entra nulla, ma che in realtà ha molto a che fare, perché tutti se ne sono accorti sicuramente, la politica soprattutto si riempie la bocca di buoni propositi quando parla di dare una nuova etica alla vita pubblica, alla società, pretende anche costumi più morigerati, visto anche il periodo di crisi che stiamo vivendo, e chiede anche compensi più limitati ai manager. Poi però, quando si arriva alla resa dei conti, alla prova dei fatti, tutti questi proclami si risolvono così, per dire, nel nulla, nel vento. Sentite allora che cosa ci ha raccontato giovedì mattina Gianni Dragoni. Il tetto non c'è più. Scompare il tetto agli stipendi dei manager delle società quotate in borsa. La Commissione Finanze della Camera ieri ha eliminato la norma controversa che al Senato un mese fa era stata introdotta all'unanimità. Unanimità anche nel fare dietro front, con l'eccezione del rappresentante dell'Italia dei Valori, il partito che aveva proposto il tetto al Senato e che ieri era assente. I manager di società quotate potranno quindi continuare a guadagnare più dello stipendio dei parlamentari, che nel complesso è pari a 248.000 euro lordi all'anno, una somma che per i manager delle grandi società quotate in borsa è inferiore di almeno il 90% allo stipendio effettivo. La norma dovrà essere votata dall'Assemblea di Montecitorio e poi dovrà tornare al Senato. Ci sarebbero ancora molte cose da dire, da raccontare sul versante politico. Per esempio, si potrebbe aprire una lunga parentesi sul regolamento della par condicio, che rischia davvero di imbrigliare tutti i programmi politici di tutti i canali pubblici e privati. nell'ultimo mese di campagna elettorale, ma non c'è il tempo qui per approfondire questa questione. Voglio dire soltanto chiaramente quella che è la mia opinione sul tema. Non mi piace questo regolamento, però anche a monte non mi è mai piaciuta la par condicio. Credo che questo sia il problema da risolvere. Si trattava a suo tempo di una legge che voleva mettere una toppa, secondo me sbagliata, su un problema, su una eccezionalità solo italiana. Vedremo come andrà a finire. Intanto segnalo che Santoro, due giorni fa, giovedì, Santoro che è probabilmente il bersaglio, anche se non dichiarato ufficialmente, più importante di questo provvedimento, giovedì si è inventato una puntata senza politica, ha parlato di Morgan, c'era Celentano e comunque ha ottenuto un grande risultato perché ha sfiorato il 20% di share. Vedremo se andrà avanti su questa linea o succederà dell'altro. E naturalmente, parlando di politica, potremmo anche tornare sull'ennesima divergenza di opinioni che c'è stata in questi giorni, esattamente mercoledì, tra Fini e Berlusconi. Questa volta il contrasto è stato sugli immigrati, ma d'altronde sono note da tempo le posizioni dei due, per esempio sulla cittadinanza da dare più rapidamente agli immigrati, opinione di Fini, e poi sul diritto di voto, almeno a livello amministrativo, che sempre il Presidente della Camera vuole dare agli immigrati regolari. Tutto questo peraltro mentre a Via Padova, e quindi ci trasferiamo a Milano, dopo le violenze gravissime di due settimane fa, si registrano ancora scontri nei giorni scorsi e anche un nuovo ferito. E invece chiudiamo tutto questo discorso politico e torniamo su una delle notizie più chiacchierate di questi giorni. Si è aperto un dibattito anche sul Sole 24 Ore. Mi riferisco alla notizia che arriva mercoledì dal Tribunale di Milano, che ha condannato a 6 mesi tre dirigenti di Google che hanno violato la privacy in riferimento alla pubblicazione su YouTube di un video che ritraeva un ragazzo disabile vittima del bullismo dei compagni di classe. Sentiamo su questo la riflessione che ha fatto il nostro Enrico Pagliarini, che poi è l'esperto di Radio 24 di nuove tecnologie e di nuovi media. Tutto questo in onda nei GR di giovedì mattina. La sentenza è la prima di questo tipo al mondo e, anche se siamo solo al primo grado, potrebbe rappresentare un precedente importante nella definizione della responsabilità dei fornitori di servizi online rispetto al contenuto. Marco Pancini è responsabile delle relazioni istituzionali di Google Italia. Se l'Internet Service Provider, cioè colui che presta i servizi online, è responsabile per quello che riguarda la privacy dei contenuti che vengono caricati dagli utenti e quindi potenzialmente li deve rivedere tutti, è impossibile prestare qualsiasi servizio internet di quelli che noi utilizziamo tutti i giorni, da Facebook a YouTube, da Google a qualsiasi altro servizio vi possa venire in mente. Per Google, quindi, chi gestisce una piattaforma digitale non è responsabile per quello che gli utenti pubblicano, ma poiché ancora non si conoscono le motivazioni, la questione affrontata dal giudice potrebbe essere meno devastante di quello che sostiene Google e risolversi in una mancanza di clausole relative al trattamento dei dati personali che la società all'epoca dei fatti aveva affrontato alla leggera quando gestiva Google Video, un sito simile a YouTube. Il motore di ricerca ha annunciato che si rivolgerà in appello, mentre l'associazione Vivi Down, che si era costituita parte civile assieme al Comune di Milano, si è detta soddisfatta. Proteste invece dall'ambasciata americana a Roma. In questa parte dell'ottavo giorno saltiamo rapidamente da un discorso all'altro e anche ci spostiamo da una parte all'altra del mondo, e allora andiamo a vedere, a riascoltare come se la sta passando Obama, il presidente americano, su quella che è una delle sue battaglie simbolo della sua amministrazione, ovvero la difficile, controversa, complicata riforma della sanità. Se fosse approvata, quando mai sarà approvata, l'ho già detto altre volte anche qui all'ottavo giorno, sarebbe davvero una rivoluzione copernicana per l'America, ma direi non solo. Riascoltiamo Sergio Nava. Al di là dei contrasti e dei tatticismi politici, è stata una bella lezione di democrazia. Un dibattito fiume trasmesso in diretta nazionale su tutti i principali network televisivi di informazione per spiegare punto su punto, capitolo dopo capitolo, le diverse opinioni di democratici e repubblicani in merito alla riforma sanitaria americana, uno dei pilastri programmatici dell'amministrazione Obama. A coordinare e tirare le somme tra i 40 congressisti c'era il presidente in persona, misurato, serio e poco incline alla ricreazione, autorevole ma non autoritario. Barack Obama ha dimostrato di essere un leader moderno che sa usare i mezzi di comunicazione senza sfociare nel gretto populismo. Quando John McCain, il rivale di una campagna elettorale combattuta fino alla fine, ha provato a buttarla in politica, Obama lo ha rintuzzato. John, the election's over. Le elezioni sono finite, gli ha detto, prima di tornare al business. Obama non ha esitato però a citare i problemi di salute avuti dalla madre e dalle due figlie per sostenere l'importanza della riforma. Così, ora dopo ora, i 40 politici riuniti intorno al tavolo hanno preso in esame tutti i punti principali delle 2400 pagine del disegno di legge, mostrando agli americani cosa ne pensano veramente, quali sono le loro proposte, politica vera su questioni di rilevanza pubblica, chiacchiere molto poche. C'è davvero molto da imparare, soprattutto a casa nostra. Bisogna dire che al di là del bello stile elogiato anche da Sergio Nava, con cui democratici e repubblicani si stanno dando battaglia sulla riforma della sanità, rimangono le difficoltà, la strada in salita per Obama per portare a casa questa benedetta riforma della sanità. Comunque insomma, Obama ha anche detto chiaramente che è pronto ad andare avanti anche senza i repubblicani, quindi anche senza avere il consenso bipartisan. E invece tutta in discesa, si è spostata anche velocemente verso il mare, scusate il brusco passaggio di quadro, di situazione. La scia oleosa che prima ha contaminato il Lambro e ben presto il Fiume Po, torniamo quindi sulle nostre rive italiane. Tutto è cominciato, per chi ancora non lo sapesse, all'alba di martedì, quando ignoti hanno aperto i collettori di collegamento di 3 cisterne della ex raffineria Lombarda Petroli, siamo nei pressi di Monza, e questo ha causato appunto la fuoriuscita di almeno 600.000 litri di gasolio, che inesorabilmente ha poi proseguito prima nel Lambro e poi gettandosi sul Po, quindi andando verso il Mar Adriatico. Tantissimi i servizi e le dirette in questi giorni su Radio 24, ne ho pescata una a caso dal cesto, una delle più significative peraltro, giovedì mattina. Sentiamo che cosa ci ha raccontato Irene Privitera. A 2 giorni da quella che i tecnici di Legambiente hanno definito una bomba ecologica, ai danni causati dagli idrocarburi che hanno inquinato il fiume Lambro in Brianza se ne aggiungono altri che potrebbero essere ancora più gravi. A breve il depuratore di Monza verrà chiuso per 3 settimane. In questo momento lavora al 25% perché è intasato dalle tonnellate di oli combustibili fuoriusciti dalle cisterne della Lombarda Petroli. Nel Lambro, considerato anche prima del disastro uno dei fiumi più inquinati d'Italia, confluiranno anche gli scarichi fognari di quasi 800.000 persone. Pietro Fioroni, presidente della provincia di Lodi. Si parla di centinaia di migliaia di litri di questo olio che è fuoriuscito. Ed è pazzesco pensare che un pinco pallino qualunque poteva avvicinarsi nella notte e aprire il rubinetto, come di fatto è avvenuto. E per gli inquirenti non ci sono più dubbi, si è trattato di un'azione dolosa. Nella giornata di ieri una task force formata da Protezione Civile, ARPA e Vigili del Fuoco è stata al lavoro per tentare di contenere l'avanzata della macchia di olio e gasolio che già in mattinata si era spinta fino al tratto piacentino del Po. Stiamo per avvicinare alla pausa per le notizie del traffico, quindi tra poco cambieremo decisamente argomento e anche tono, perché parleremo soprattutto, anzi esclusivamente, di sport. Però insomma preferisco già andare adesso su note ben più leggere che riguardano un po' il costume italiano. E allora ricordiamoci che una settimana fa finiva il Festival di Sanremo ed ecco come è andato a finire, con il servizio conclusivo, l'epigrafe su questa edizione di Sanremo, firmata da Marta Cagnola, l'inviata di Radio 24. Non ci credevo sinceramente, non ci credevo, sapevo che era vero, ho pensato tante cose, alle persone che c'erano qua a Sanremo, per me, ai miei genitori. Per tutte le volte che... Ancora un fenomeno da talent show, ancora un personaggio di Amici, ancora un sardo. A Valerio Scanu è andato un Sanremo di grande successo d'ascolti, in una sera in cui è successo di tutto. Fischi, contestazioni, fino alla rivoluzione dell'orchestra che straccia lo spartito per protesta contro le eliminazioni. È escluso dal Festival di Sanremo, vediamo chi. E poi gli operai di Termini Imerese sul palco con Maurizio Costanzo a raccontare la loro situazione. Ho 43 anni e da... E sì, ha 3 figlie. E gli interventi di Pierluigi Bersani e di Claudio Scaiola. Una platea già surriscaldata ha contestato l'uno e applaudito l'altro sotto gli sguardi terrorizzati di Antonella Clerici, che sicuramente temeva anche il risultato. Valerio Scanu! Mai una situazione così assurda e grottesca a Sanremo. Forse è questo il successo del festival, assomigliare tanto all'Italia. Questo Festival di Sanremo, che tra l'altro è stato il più visto del decennio e anche quindi di conseguenza del nuovo millennio, davvero ha regalato molti spunti. Potremmo fare una trasmissione intera su quello che è successo in Riviera. Sicuramente ci ricorderemo della coppia Pupo Filiberto, più per i fischi e le contestazioni che ha subito, piuttosto che per la qualità, diciamo, canora sia del principe che poi della canzone stessa. E poi ci sono state tutte le polemiche che sono proseguite anche nei giorni successivi alla fine del festival sul televoto, ma insomma le polemiche fanno parte di questo pezzo comunque della storia popolare, perlomeno italiana, che sembra davvero intramontabile. L'ottavo giorno. Il finale di puntata è tutto dedicato allo sport e dunque chi meglio dell'amico Carlo Gente, che poi è la voce dello sport di Radio 24, mi può accompagnare in questi minuti. Buongiorno Carlo. Buongiorno Emiliano, sempre un piacere. Allora Carlo, partiamo subito dal calcio, poi naturalmente parleremo soprattutto di Mourinho, che nel bene e nel male continua ad essere un personaggio e catalizza un po' tutta l'attenzione degli sportivi e dei media. Insomma, nell'ultima settimana comunque abbiamo visto un intenso ping pong tra campionato italiano e la Champions League, a volte anche ricco di stress. Il giorno clou è stato mercoledì, con in poche ore prima il Milan che, vincendo a Firenze, ha recuperato un grosso margine sull'Inter, ora a meno 4 dalla capolista, e poi l'Inter stessa che invece ha vinto la battaglia di San Siro, l'andata degli ottavi di Champions contro il Chelsea di Ancelotti, partita naturalmente piena di contenuti e di attese. Per introdurre quindi la discussione con Carlo Gente ci riascoltiamo un divertente servizio di giovedì mattina firmato da Dario Ricci. Perché siamo due destini che si uniscono. L'Inter che tiene aperta la corsa alla Champions, il Milan che riapre, almeno sulla carta, quella scudetto. Tra Coppa e campionato, il mercoledì del calcio ha intrecciato i destini delle due milanesi. Sorridono entrambi, Mourinho e Leonardo. Il portoghese scopre, nella notte di San Siro, che la sua Inter ha imparato a non tremare davanti alle grandi d'Europa, anche se di fronte ha il Chelsea targato Carletto Ancelotti. Leonardo, a Firenze, ha capito una volta di più che il suo Milan fantasia ha anche grinta e orgoglio da vendere, se è vero che strappa in rimonta tre punti decisivi per il resto della stagione. Nessuna sorpresa, allora, se a fine serata lo Special One nerazzurro assomigli un po' al Leo rossonero, pacifico apostolo del calcio bailado. I giocatori sono sempre più importanti che l'allenatore. Io ho chiesto al giocatore gioia e fiducia di giocare. Certo, a dividerli oltre la maglia ci sono anche le polemiche arbitrali, ma a riavvicinarli poi Leo e José ci penserà ancora la Champions. Per entrambi futuro europeo che si deciderà in Inghilterra con le trasferte di Manchester e Londra. Destini che si uniscono, appunto. Allora Carlo Genta, procediamo con ordine, partiamo dalla Champions. Possiamo dire che almeno una volta dopo tanto tempo l'Inter ha finalmente risposto presente all'interrogazione europea? Sì, quantomeno sul piano del gol. No, risentendo il servizio mi viene in mente il diavolo e l'acqua santa, no? Un po' abusata Mourinho come immagine. E Leonardo. Un po' abusata come immagine, però è stata usata ad esempio per Kakà e Cristiano Ronaldo al Real Madrid. No, per quanto riguarda l'Inter, sì, lo dicono i numeri, no? Non vinceva una partita di questo tipo, soprattutto non segnava in un ottavo di finale ormai da un sacco di anni. Quindi solo il fatto che abbia realizzato due gol, soltanto il fatto che vada a Londra per difendere una vittoria è senz'altro positivo. Poi Emiliano, è una partita molto strana anche quella tra l'Inter e il Chelsea, segnata dalla scansione dei gol, perché l'Inter si è trovato in vantaggio al pronti via subito dopo il fischio iniziale e questo ha condizionato la partita di entrambe. E poi, sempre in modo molto curioso, il secondo gol dell'Inter è arrivato nel momento peggiore, nel momento dello shock del pareggio del Chelsea, è arrivato in maniera un po' estemporanea questa seconda rete, poi ci sono stati tutti i vari episodi che ben conosciamo, morale, si va a Londra a difendere comunque una vittoria. Io credo che l'Inter debba andare a Londra col pensiero fisso di fare un gol, perché non... Anche perché il Chelsea li fa sempre i gol, soprattutto in casa. Certo, il Chelsea li fa sempre i gol, soprattutto in casa, il Chelsea comunque ha dei grandi attaccanti, ha dei giocatori, e questo è bene insistere, molto abituati a queste grandi sfide, a queste grandi partite, cosa che all'Inter ancora un po' fa difetto dal punto di vista proprio dell'esperienza a questi livelli, a vincere queste grandi partite. Deve andare a fare un gol l'Inter, non c'è poco da fare. Però io insomma sarei abbastanza fiducioso, abbastanza ottimista, pur senza esagerare. Ecco Carlo, continuiamo a proiettarci sulle gare di ritorno, perché poi il bello e il brutto che sia arriverà proprio tra qualche settimana. Ci hai già detto cosa pensi dell'Inter, poi c'è la missione impossibile del Milan che deve andare a Manchester a vincere 2-0 e poi c'è la Fiorentina che invece deve provare a ribaltare in casa la sconfitta tra mille polemiche con un errore colossale dell'arbitro sul secondo gol del Bayern Monaco, un 2-1 in Germania. Dammi le tue quote appunto su Milan e Fiorentina, se ti ricordi bene, se si ricordano i nostri ascoltatori più attenti, sì. A dicembre, a caldo, usciti i sorteggi, abbiamo pronosticato un misero 0-3 per i nostri colori azzurri. Insomma, dimmi le tue sensazioni adesso dopo le gare di andata. Ma no, guarda, io ti dico la verità, non dispiacerà a tutti, anche a me, non ho cambiato molto le mie idee. L'unica su cui forse potrei rivedere qualcosa è l'Inter, proprio alla luce di questa vittoria, no? Perché comunque è importante. Le altre due non le vedo benissimo, beh, il Milan hai detto bene tu, no? Missione impossibile, laddove per impossibile sta Insomma, non vedo un Milan che va a vincere 2-0 a Manchester, proprio non ce lo vedo, ecco. Ma anche la Fiorentina, che sta vivendo un momento molto sfortunato con gli arbitri, come Della Valle ha prontamente rimarcato, peraltro. Ma perché Mourinho è il diavolo su tutto, gli altri sono invece l'acqua santa, però guai a non parlare di arbitri nel nostro campionato. Anche la Fiorentina non la vedo benissimo, in un momento piuttosto sfortunato, e il Bayern comunque, per tornare al discorso di prima, è una squadra di giocatori che ha esperienza di queste partite, quindi sarà dura anche per i Viola. Beh, faremo i conti allora tra qualche settimana. Vediamo invece al nostro campionato, perché c'è stato lo stravolgimento dopo il recupero di mercoledì con la vittoria corsara, come si dice in gergo, del Milan a Firenze, al di là delle polemiche di rigori dati e non dati. Insomma, ci ritroviamo comunque con il Milan a meno 4 dall'Inter, la Roma a meno 5, poche settimane fa il vantaggio dell'Inter era molto più ampio e già si parla di campionato riaperto, è giusto dire così? Ma secondo me è un giochino molto giornalistico questo del campionato riaperto, secondo me non è riaperto, perché non vedo l'Inter ancora in difficoltà, non vedo ancora l'Inter sotto pressione, chiaro va a Udinese che ha cambiato allenatore, ha ritrovato una vittoria molto fortunosa per la verità con il Cagliari, l'Inter ha lo stress, la fatica e tanti problemi di organico e si riporterà tutti a Udine, quindi senza... A Udine dove rischi abbastanza in queste condizioni di emergenza tra infortunati e squalificati. Sì, l'Inter rischia abbastanza a Udine, ma appunto sarà una risposta importante questa per un campionato che continua a considerare chiusa, almeno fino a che non vedrò l'Inter in sofferenza. La Roma, insomma, anche quella vista in Europa League, mi sembra una squadra molto stanca e rischia tantissimo a Napoli. Il Milan non mi è certo piaciuto, ma non credo sia piaciuto nemmeno agli stessi milanisti a Firenze, perché in tutta onestà, al di là dei singoli episodi, la Fiorentina ha dominato la partita. Quindi aspetterei a dire campionato riaperto. Certo, in questo turno il Milan può capitalizzare le circostanze, delle tre quella che ha l'impegno sulla carta più semplice, ecco. Poi vediamo, ma per il momento non vedi spiragli di campionato aperto. No, allora Carlo, no. Noi dobbiamo parlare naturalmente anche di Vancouver, della spedizione italiana che non ha certo brillato finora, manca davvero poco alla fine dei giochi, però una battuta su Mourinho che tra l'altro nel sabato di campionato, prima della partita comunque fiammeggiante di Champions contro il Chelsea, si è trovato in un incendio di polemiche, l'Inter ha finito in 9 contro 11 prima e poi 10, peraltro pareggiando nonostante questa netta inferiorità numerica, c'è stato il silenzio stampa, le polemiche, tutti contro Mumu, contro tutti, squalifiche pesanti. Tantissime. Come la vedi? Non è che forse anche il calcio italiano vuole dare una lezione a questo personaggio che magari è sgradevole, magari dice cose un po' sopra le righe, però è anche uno, l'unico forse, tutt'altro che ipocrita e conformista come sono gli altri. Ma è un personaggio, guarda, in queste settimane c'è un contraddittorio molto aperto e molto vivo tra me e gli ascoltatori, insomma, su questo punto. A me i personaggi piacciono, non mi infastidiscono più di tanto, è chiaro che anche Mourinho molto spesso dice delle cavolate. Va sopra le righe, forza certe situazioni e questo lo si fa notare senza alcun problema, però è uno che ci mette la faccia e il calcio italiano molto falsamente perbenista in certi suoi modi di vivere, mal tollera questo personaggio strano, questo marziano che si è ritrovato per le mani. E dunque fa fatica a metabolizzarlo, fa fatica a gestirlo, fa fatica ad inquadrarlo. A fine anno se ne va un flash? Sì, credo di sì. Benissimo, su questa battuta finale di Carlo Genta ci fermiamo, non possiamo parlare di Vancouver, di Olimpiadi, l'Italia non sta brillando, sono mancati lo sci, Isolde e Carolina Kostner, insomma faremo un bilancio magari la settimana prossima, ci fermiamo, ringrazio ancora Carlo Genta, ringrazio Valerio Rocchetti in regia, ricordo la mail ottavogiorno@radio24.it, ci ritroviamo sabato prossimo alle 9 e naturalmente siamo tutta la settimana sul sito www.radio24.it.